America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Hands up, don't shoot, mani in alto. Bene, il poveretto, cioè Terence Crutcher a Tulsa in Oklahoma, le mani in alto ce le aveva e come, eppure la poliziotta Betty Shelby ha sparato lo stesso e l'ha ucciso. È stato uno degli incidenti che hanno poi provocato le dimostrazioni nella Carolina del Nord, lo stato di allarme, l'intervento della Guardia Nazionale. La notizia qual è? Beh, la notizia è che Betty Shelby è stata incriminata con l'accusa di omicidio colposo. Ecco, devo dire che questo significa che qualche cosa sta cominciando a muoversi. Non è che un poliziotto, per il semplice fatto che indossa una divisa, è al di sopra della legge e può compiere qualunque efferatezza. Dunque, questa notizia dovrebbe in qualche modo servire a calmare le acque anche in North Carolina, se non fosse che purtroppo abbiamo avuto la notizia di un altro morto. Touron Boyd, 21 anni, era stato picchiato dalla polizia a Baltimora. I familiari avevano chiamato, c'erano stati disordini in casa, i poliziotti sono saliti. La famiglia dice lo hanno picchiato con troppa violenza. In effetti il poveretto è andato in ospedale ed è morto. Speriamo che questo non crei ulteriori complicazioni. Ecco, ma oggi vorrei parlarvi di un'altra notizia, di un problema transatlantico, problema annoso. In parte ne abbiamo parlato in qualche modo ieri quando vi ho riferito di una notizia legata alla commissaria europea per la concorrenza Margrethe Vestager. Sentiamo. The World Trade Organization has accused the European Union of failing to rein in billions of dollars in subsidies. Ecco, la notizia è molto semplice, ma devo dire ha fatto scalpore. La WTO, la World Trade Organization, quindi la massima autorità preposta a dirimere le controversie commerciali, ha espresso un giudizio su una causa che era stata intentata dalla Boeing contro l'Airbus. Tra l'altro questa istanza della Boeing era stata appoggiata dal governo americano, perché poi sono anche i governi che si rivolgono a questa organizzazione multilaterale. L'accusa: c'erano dei finanziamenti di Stato, delle sovvenzioni dunque illegali, che andavano a turbare la concorrenza nel mercato degli aerei. Questi erano i finanziamenti degli aiuti di Stato che l'Europa dava a Airbus. Qual è il problema? Che le autorità europee per la concorrenza, sollecitati su questa cosa, hanno detto no, adesso vediamo, ci proviamo, cerchiamo di capire, ma non hanno fatto assolutamente niente. Ecco, perché questa cosa ci interessa? Ma perché? Prepariamoci, perché se l'Irlanda potrebbe incassare controvoglia 13 miliardi di dollari dall'Apple Computer perché il commissario europeo Vestager ha identificato queste elusioni fiscali, beh, molti prodotti italiani potrebbero subire invece penalizzazioni tariffarie sulle esportazioni in America per una parte di quei 5 miliardi di dollari all'anno di ritorsione che la WTO ha concesso all'America per la questione dei sussidi Airbus. Ecco, questo è un caso che devo dire trovo curioso. Perché in entrambi i casi il pallino è stato in mano del Dicastero europeo per la concorrenza guidato appunto dalla Vestager. Nel primo caso, dicono i critici, per eccesso di zelo nell'interpretare i codici con dubbio effetto retroattivo, tra l'altro, di questo si parla molto. Nel secondo caso, per aver invece chiuso un occhio, sempre la Vestager o comunque le autorità europee, su codici e regole che la signora e la sua squadra, devo dire, conoscono a menadito, perché li ho incontrati l'altro giorno alla Columbia University e mi sono accorto che in effetti la Vestager aveva una padronanza straordinaria di regole, articoli, comma, strutturazione delle leggi. Ecco, la cosa che mi ha colpito è che, nonostante la bastonata della WTO, la Commissione ha negato che si trattasse di una sconfitta. Devo dire che vadano a spiegare alle aziende italiane quando riceveranno il conto da pagare per le violazioni di Airbus. Si aggiunga a questo l'ironia della situazione di contorno. Perché sempre blindata dietro l'irreprensibile rispetto delle regole, la Commissione, per bocca del presidente Juncker, ha negato ieri un'altra flessibilità fiscale all'Italia per far fronte a spese extra per il terremoto in Umbria. Cioè, no, ve ne abbiamo già date troppe di flessibilità, basta. Ecco, e l'America? The Justice Department is proposing a settlement for Deutsche Bank of $14 billion. Allora, Washington non sta ferma, perché poi ha chiesto 4 miliardi di dollari per operazioni non proprio trasparenti di Deutsche Bank su derivati. Complessivamente, tra multa e ritorsione nelle due direzioni, parliamo di una trentina di miliardi di dollari, con tanto di scorno per le aziende che dovranno pagare. Ecco, che ci sia davvero un braccio di ferro transatlantico, non credo. Ecco, non è un braccio di ferro, perché non ci sono delle congiure, ma piuttosto delle coincidenze. L'appello americano alla WTO, la World Trade Organization, su Airbus risale a molto tempo fa. La multa inflitta dalla signora Vestager all'Apple Computer è il risultato di un fascicolo aperto dal suo predecessore. Le violazioni di Deutsche Bank, sappiamo quanto la banca tedesca, come dire, abbia scherzato col fuoco, esponendosi per centinaia di miliardi di dollari a operazioni di sola carta prive di garanzie reali. Ecco, direi di chiudere domandandoci come mai la Vestager, che è così ligia, sa tutto, ha snocciolato questi articoli, vuol dire con grande competenza, ha chiuso un occhio, anzi due, su Airbus. Non lo so, è possibile che le sia sfuggito qualche dettaglio che invece la WTO spiega in questa sentenza, che è un tomo di 574 pagine, pensate, 574 pagine. E se queste regole non funzionano, magari è il caso di cambiarle. È inutile applicare delle regole solo perché sono scritte. Ecco, questo è il trionfo appunto della burocrazia. Tanto più che l'Italia poi paga due volte. Paga per il rispetto di regole che secondo me sono vessatorie in uno stato di crisi come quello che stiamo soffrendo anche per via del terremoto, e poi paga per far fronte al danno generato da altri paesi che invece le regole non le hanno osservate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americano24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei fare un passo indietro, perché parto dallo spunto di una notizia in più. Yahoo! 500 milioni di utenti Yahoo sono stati rubati, tra virgolette, nel 2014 da un hacker russo o comunque che lavora con la Russia. Questo potrebbe far saltare l'accordo di vendita che Yahoo aveva con Verizon, perché vuol dire che tutti i documenti di questi 500 milioni di utenti sono di fatto nelle mani di altre persone. E allora ritorno al tema comunicazione, internet, banda ultralarga, che abbiamo affrontato ieri con Giuseppe Recchi, presidente esecutivo di Telecom. E lui aveva lanciato la canzone del giorno, poi per questioni di tempo ieri è saltata. Vi ripropongo la canzone del giorno con Recchi. Song of the day. Noi siamo un'azienda di tecnologia, per cui dovrebbe essere una canzone rock, ma pensando alla telefonia la canzone che viene in mente è I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder. No New Year's Day to celebrate. No child a cup of candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling Che tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.